Gentili ascoltatori, sono le 7:30 del mattino. Se anche voi vi sentite in un film di Stanley Kubrick, benvenuti. Questa è la colazione che serviamo in diretta dalle 7 alle 9 del mattino. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll con l'Ariele, Mister Trombetta, il tecnico Spadino, il rocker di riferimento Roberto Fricantoni e Isaac Rizzi. Dobbiamo fare una squadra di calcetto, potremmo. Tireremo dritti fino alle 9. Le coordinate 335-100-7777, l'SMS ariel@radiorockfm.com. Siete o non siete dei veri rocker? Così. Ogni tanto chiedetevelo come allenamento mentale, training. Abbiamo una segnalazione di quelle che scottano. Ci lavoreremo su. Ne combineremo delle belle anche stamattina. Preparatevi per bussando alle porte del paradiso, eh. Un classico di PBR. Attenzione, senti come vi ripiglia Spadino. Yeah. I can explain. Anzi, I can explain. Piace tantissimo questa rubrica che abbiamo denominato strano ma vero, e cioè le ansie in ansia. Sì, guardando i giornali spulciamo quelle notizie che non hanno veramente senso, se non quello di farti sogghignare. Ma insomma, le notizie che gli altri scartano, noi raschiando il fondo del barile del notiziario facciamo nostre, perché hanno una loro intensità. Quella di oggi è dedicata ai cercatori di mirtilli, chissà quanti ce ne saranno all'ascolto. Le lancio la sigla! Svezia, cercano mirtilli e trovano una miniera d'oro. Diventare ricchi dall'oggi al domani è possibile, di certo non per tutti, ma fa piacere sapere che i sogni delle volte possono diventare realtà. In Svezia, due donne uscite di casa per andare a raccogliere mirtilli nei pressi delle loro stesse abitazioni hanno scoperto una miniera d'oro. Le fortunatissime signore Siv Vik e Harriet Svensson vivono a Overturing e ora rischiano di diventare milionarie. La scoperta risale allo scorso 20 agosto. In questi mesi le due signore hanno portato una pepita in un centro dove l'analisi ha dimostrato trattarsi di una pietra contenente alte percentuali di oro e zinco, con tracce di argento e rame. Stiamo per firmare un contratto con una compagnia mineraria, ha spiegato la Vic che da quel giorno la nostra vita non è stata più la stessa. Come prima cosa ci interessa che inizi lo scavo, in seguito, quando si conoscerà la grandezza del giacimento, discuteremo dello sfruttamento della cava. Il piccolo centro di Overturingen, situato 500 km a nord di Stoccolma, conta appena 171 abitanti. Nessuno teme che la notizia della presenza di giacimenti auriferi possa far scoppiare la famosa febbre dell'oro. La disoccupazione qui al nord è molto alta, ha spiegato ancora la signora Vica, a tutti farebbe comodo se aprisse una miniera. In Svezia, pagando un'imposta, è possibile acquisire i diritti sui proventi della caccia ai metalli preziosi, anche su appezzamenti terrieri non di propria proprietà. Tranquilli, le due amiche si sono dette comunque convinte del fatto che la loro vita non cambierà, diventeranno quasi certamente ricche, ma continueranno a raccogliere mirtilli insieme. Quando bello, c'è l'amicizia, quando c'è l'amicizia. Scopriamo un paio di cose con lo strano ma vero di oggi. Ah, ci sono i mirtilli in Svezia. Che uno dice è quasi io impossibile. Pensavo ci fosse solo la neve in Svezia, la tundra, invece, a nord di Stoccolma. Esatto. B, cerchi mirtilli, ci sta che trovi l'oro. Ma scopriamo anche che la legge svedese ti lascia frugare nei campi degli altri, sì, e anche sfruttare eventuali scoperte di giacimenti. Salutiamo le mitiche Vic e Svensson, grandi ascoltatrici di PBR. Al grido la Svezia è sempre avanti. E me, che c'è? Reach out of space. Reach out. Jesus, The Pesh Mode. Alright. Pane, burro, rock and roll. Non nascondiamoci dietro il classico dito. Vediamo di essere sinceri. La miglior colazione attualmente in circolazione. Con tanti pregi, quello di essere un programma irresistibile, tipo, e qualche piccolo difetto, ammettiamolo, ci piace essere i primi della classe. È sempre aperta la gara agli ascolti con tutte le altre frequenze radiofoniche. Davide batterà Golia o Golia schiaccerà Davide? Questa è una domanda che continueremo a porci finché avremo voce in corpo. Ecco, tra i nostri difetti c'è appunto quello di voler essere comunque sempre avanti agli altri. Do la buona giornata a Matteo dalla Versiglia, dico bene? In particolare da Massa. Da Massa. Alta Versiglia, diciamo. Ciao Matteo, 32 anni. Sì. Adesso gli spiego ai radioascoltatori perché ti mandiamo in diretta. Perché Matteo ha una band di hard rock, hard heavy metal. Hard and heavy. Come vi chiamate? Silent Scream. Allora, esatto. Giustamente Matteo mi scrive via SMS: oh figo, stasera alle 9 ci intervistano su Contatto Radio, che è una radio, presumo, lì delle vostre parti. Sì, sede a Carrara. Esatto. E hai capito, la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll subito dice: primi! E allora l'abbiamo chiamato per metterlo in diretta, così Matteo potrà dire: no, io però prima ero stato intervistato a Rock FM. Sì, io così sono uno navigato. Abbiamo vinto Rock FM 1, Contatto Radio 0. Poi fateci sapere se fanno contromosse, ma noi intanto... Ma di dov'è Controradio? È lì? No, non Controradio, Contatto Radio, perché Controradio è l'altra, sai? Di Carrara, sì. Di Carrara. No, tra l'altro, sia ben chiaro, siamo pronti a sfidare anche Controradio, cioè tutte le sfidiamo. Tutte le sfidiamo. Comunque vinciamo, quindi... Ma allora, stasera hai un'intervista di che tipo? Ma allora, si presenta il gruppo, i componenti, ognuno porta i pezzi, diciamo, con i quali è cresciuto, io porto gli ACDC, se permettete. E poi si fanno, si mandano anche dei pezzi nostri registrati. Quindi è un programma dedicato a band, alle band? Sì, a band locali, emergenti. Beh, questo fa decisamente onore a Contatto Radio. Certo, sì, indubbiamente. Touché. È una bellissima cosa. Beh, già che ci sono, Ariele, faccio anche pubblicità a un concerto che abbiamo Matteo, giovedì sera. Vedi tu, cioè, vedi tu. Beh, ovvio, dai, via, a livello semi-nazionale. Dillo. Giovedì allora, dove? Giovedì sera siamo al Power Slave, locale quindi dal nome direi più che azzeccato. Sì. Sempre lì a Marina di Carrara. Okay. Ragazzi, venite in massa, noi siamo lì per voi. Poi Matteo ve lo ricorderà anche stasera su Contatto Radio, però ovvio, già l'aveva detto su Rock FM, quindi è tutta roba già sentita. Siete arrivati primi. Senti, siete pronti per l'intervista? Prontissimi. Io di più degli altri a questo punto. Esatto. Ovviamente. Come mai vi chiamate così? Ve lo chiederanno. Beh, sì, è un ossimoro, diciamo. Bravo, questa è una bella risposta. Ma io, anche se non fosse vera, è una bellissima risposta. Perché io, con ossimoro, qualsiasi speaker tu ti trovi davanti, un attimo si ferma e dice: az, questo ha detto ossimoro. Io so tre parole belle, ogni tanto le infilo nei discorsi e faccio vuoi buttarci bella figura. Anche palindromo è una di quelle cose che anche quella fa abbastanza. Bravo. Sì, appuntatelo da qualche parte. Sì, palindromo. E niente, quindi è il cantante, nostro leader della band, del metal, che creò questo, ovviamente, questo nome, come ben sapete, ovviamente ha un'origine da altri gruppi, da altri pezzi, da altri brani di altri gruppi, però insomma noi l'abbiamo fatto, avete nostro, fatto vostro, bravo. Sì. Senti, allora alle 9 questa sera su Contatto Radio risentirete Matteo, il nostro radioascoltatore, e di lavoro invece mi fai il giardiniere. Beh, molto più... Io per l'esattezza sono un agronomo e mi sono specializzato nella progettazione e nella realizzazione dei giardini, però questo non te lo potevo scrivere nel messaggio perché era troppo, una cosa un po' lunga. Però così fai parte di quel gruppo d'ascolto lì e va bene. Sì, l'ho creato io, sono io che lo conduco, insomma. Intanto grazie per averci fatto arrivare prima di Contatto Radio, in bocca al lupo per stasera. Grazie mille, crepi. Ciao ovviamente. Matteo, a presto. A presto. Ciao. Grazie Ariele, ciao, grazie. Siamo fatti così a PBR, cioè proprio se c'è la possibilità di arrivare prima degli altri, tac, lo facciamo, solo per mettere la bandierina, così. Un saluto agli amici di Contratto Radio e di Controradio, di tutte le altre radio. Ciao belli! sono stati capaci di osare. Hanno fatto un provino per diventare musicisti rock con la bocca. Sono stati temerari. Ma avranno il fattore rock? Pane, burro e rock and roll presenta il primo reality telefonico della storia della radio. Il grande fattore, alla scoperta del fattore rock. Le regole: 1. Alla terza chiamata non risposta sei fuori dal gioco. 2. Se non fai quello che ti ordina il GF sei eliminato. E sarò cattivissimo. 3. Al primo errore sei out. Prossimamente su Rock FM. My way on Blind Faith, grande la musica di Rock FM, come grande la musica di PBR. Attenzione, reparto, cosa volevano dirci le traduzioni cantate? Grazie al nostro rocker di riferimento Roberto Fricantoni, grazie a me e a Isaac Rizzi alle chitarre, in particolare per il brano che vi sto riproponendo quest'oggi. Il ringraziamento va anche al buon Appino della formazione pisana degli Zen Circus, che ci aiutò qualche giorno fa ad incidere Bussando alle porte del paradiso. È originariamente scritta da Bob Dylan come Knocking on Heaven's Door, e così trasformata da noi di PBR. 1, 2, 6, 9. Buon ascolto. Maestro, mi raccomando, ci metta intensità. Sì. Una canzone così bella. Sì. Mamma, toglimi questo distintivo, che non posso più usare. Sta diventando troppo buio per vedere. Mi sento come stessi bussando le porte del paradiso. Bussando le porte del paradiso. Toc toc. Bussando le porte del paradiso. Toc toc, c'è nessuno. Bussando le porte del paradiso. Montare un citofono no qua in paradiso, eh. Bussando le porte del paradiso. Mamma, ho messo a terra le mie armi. Io non sparerò mai più. Quella lunga nube nera sta scendendo. Mi sento come stessi bussando le porte del paradiso. Bussando le porte del paradiso. Toc toc, c'è nessuno? Bussando le porte del paradiso. San Pietro è molto occupato al momento. Bussando le porte del paradiso. Avremo un San Paolo? Forse no. Bussando le porte del paradiso. Un San Malachia può andare? No, grazie. Bussando le porte del paradiso. Tornerò, tornerò, toc toc, tornerò. Bussando le porte del paradiso. Ripete sfumando. Bussando le porte del paradiso. Toc toc, toc toc. Bussando le porte del paradiso. C'è nessuno, c'è nessuno. Bussando le porte del paradiso. Mi dia l'apri porta, grazie. Bussando le porte del paradiso. Mi butti la chiave. Bussando le porte del paradiso. Love it.